Runtime Radio presenta Ottimisti genericamente mortificati. Cari amici, benvenuti a questo nuovo episodio di OGM vs. OGM, che è la nuova trasmissione. Aspettate, aspettate, perché qui ci sono già dei politici boicottati. Prego, parli. È lei il problema. Ecco, parla. Oh, ora mi si sente, anche troppo. Cioè. Parla. Basta, no, non mi si sente più. Ok, no, ti si sente. Ah, non sono contento. Certo che se vieni all'ultimo minuto, grazie al cazzo. L'ultimo minuto, scusate. È questo, è quello che pensi tu, perché io devo sempre venire all'ultimo minuto. State buoni, lì dietro non applauditi se non faccia quando... finta di avere una fidanzata che le dice se queste non cose. Quando allora, non incominciamo, lo dico io. Riprendiamo la trasmissione, perché purtroppo la trasmissione è partita male per colpa, no, guardi, della negligenza. Perché sennò mi alzo e me ne vado. Allora, buonasera, benvenuti a OGM verso... Dovete cominciare a mantenere un atteggiamento. State buoni. Perché io altrimenti chiudo la trasmissione. E ve ne andate tutti e non ci fate una bella figura, perché questa è la cosa che vi conta di più. Assolutamente. Quindi, lei non chiuderà un bel benvenuti. Niente. Benvenuti. Oh, mi fa parlare per cortesia. Io devo parlare, sono venuto qui per parlare. Dopo, al suo turno parla. Nei tempi ma che qui mi si interrompe. Mi si fa, non ma non mi è che si interrompe, non può parlare. Guardi, ma avevano detto che era una trasmissione. Allora, io sono Bruno Pizzi. Sono Bruno Pizzi, no Bruno Pizzul. Vabbè, quello. Anche se questa cosa può trarre un po' in inganno. Io detto anche Bruno Pizzul. Ma lei insulti sua nonna, per cortesia, prima di tutto. Bene, comunque mia nonna non si tocca. Abbiamo in questa puntata due ospiti importanti per parlare di quelli che sono i temi più importanti dal punto di vista nazionale e anche internazionale, per vedere come i nuovi schieramenti e i vecchi schieramenti vedranno di affrontare quelle che sono le problematiche più imminenti. Abbiamo Forte del suo 33% di recente acquisizione, anche se bisogna un po' vedere, insomma. No, niente polemiche, Il leader della Lega Ottimista, Matteo Gualdi. Ora si scatenino gli applausi della morte. Ancora di più. Lei signora, si stracci le verse, brava. No, signora, no. Tiri le mutande, no, tiri le mutande. Quello, scusate, oscurate per cortesia, perché è una cosa bella. Ragazzi, e cioè, qui mi si tarpano le ali. Abbiamo invece dall'altra parte il leader di un movimento neonato, insomma, nascente, che è un po' una tradizione. Secondo me è neonazi anche. No, io non vorrei dire niente. Allora, lei è un millantatore, basta. Non c'è altro. Io la denuncio. Non c'è altro neggi, perché. E abbiamo appunto questo neomovimento che è tipico, insomma, della politica italiana, cioè i nostri politici, quando a un certo punto non gli va bene una cosa, si fanno il partito. Quindi, leader dell'Italia mortificata, abbiamo Matteo Sbano. Oh, finalmente un faro di mortificazione su questo paese bistrattato. Però io inviterei il pubblico a mantenere un comportamento equo. Assolutamente. Io ho pagato tutti perché siano equi, assolutamente. Un momento, allora, se il moderatore non si informa, l'EQ c'era negli anni 90, adesso c'è l'euro, per favore. Ma l'EQ era un'ipotesi, era una moneta virtuale per i tassi, per i mutui, non glielo spiego io. Allora basta con questi tecnicismi, che gli italiani non sono stupidi, gli italiani sono intelligenti, hanno capito che lei sta terviggiando. Intanto lei che le soffiato di alcol, chi è? Intanto, scusi, no. Insomma, Matteo, allora, guardi, con il mio 33% allora, intanto di intanto incominciano ad arrivare i primi Twitter degli ascoltatori, per esempio c'è Stefano che ci dice: adesso ragazzi, come al solito, vi saluto e vi ascolterò domani perché ho la femmina. Mi raccomando, il simbolo da barrare sulla scheda è il cerchietto con la M di mortificati. Mortificati, bene. Ci allora disegnare una ceppa di cazzo. Io partirei dal leader della Lega Ottimista. Perché questa cosa? Partendo ma sono io. Allora sì, partiamo da me. Esatto. Mi permette di dire una cosa a questo Stefano? Ma che se ha la femmina incinta, la sua presenza è stata già fin troppo ponderata, insomma. insomma, di nuovo, ancora, ecco, la vogliamo rimettere incinta. Ecco, la Lega Ottimista, per esempio, che cosa prevede per le donne incinte, per esempio? Innanzitutto prevedo che per le donne incinte ci deve essere almeno una doppia gestazione, perché qui gli italiani hanno grazie, hanno bisogno di nuovi italiani. Gli italiani hanno bisogno di nuovi italiani. Abbiamo bisogno di nuovi italiani che paghino le tasse, ma soprattutto per i prossimi le italiani, imposte per i prossimi italiani, nonché le tasse, le imposte e le pensioni. Vabbè, questo aspetto mi ha anche convinto, però io partirei da un problema più generale, il clima. Per esempio, che cosa pensa la Lega Ottimista di tutto il messaggio che Greta Thunberg sta cercando di trasmettere nel mondo? Innanzitutto, i cazzi. Bisognerebbe pensare... Grazie. Ma è una minorenne, che cavolo! Ma cioè, veramente, siete delle bestie. Siete delle bestie. Cazzi. Guarda, suoi. Io inviterei anche il leader della Lega Ottimista. Dietro di lei c'è uno stock 84, se vuole. Poi. Quello dopo? Dopo. Cioè, l'ho già rocchiato, ragazzi. Io ho la vista dappertutto. Questa ragazza di 16 anni che potrebbe pensare ad altro, adesso sta pensando all'ambiente. Lei è un pedofilo. Quando potrebbe... Se lo faccia dire, lei è un pedofilo. Guarda, scusi. Sono d'accordo. Sbano, quando tocca a lei. Vedete che d'accordo. Quando tocca a lei. Sono un pedofilo, infatti è giusto, è vero, mi piacciono i piedi. Grazie signore. Ancora la mutanda, brava. Complimenti. Dovevo pensare a questa cosa di questi bambini. No, seriamente, adesso si scherza, la gente prende in giro Greta. No, bisogna incentivare questi ragazzi, le nuove vabbè, generazioni. Un momento, devi riassumere un po', perché è una trasmissione televisiva. Sto riassumendo. Bisogna incentivare questi nuovi ragazzi a fare figli, perché così pagheranno le tasse e le imposte, ma soprattutto le pensioni alle generazioni future. Applausi. Ma se avete distrutto il mondo del lavoro, Con quale lavoro dovrebbero pagare le tasse queste persone? Noi dobbiamo. Il lavoro si trova. Cioè, veramente c'è una. C'è una standing ovation qui per Bruno Sbano, che non, in realtà non è Matteo, per favore. Ho sbagliato, sto confondendo con me stesso, che appena intervenuto è già scatenato. Però lei, l'Italia mortificata, invece, come si pone nei confronti di questa giovane donna, questa antica fanciulla che si appresta al combattere per problemi di collettività? Ma glielo spiego subito. Come da nostro programma, come da nostro statuto, che noi noia. Supporteremo i bisogni di queste nuove generazioni, a pensare sempre a fare i bisogni da questa giovane piena di valori, che giustamente combattere il cambiamento climatico, la cosa più importante, e noi ci faremo portabandiera di questa istanza, è... Non lo so, questa è sbagliata. La indovino con una. No, è fare in modo che finalmente ci sia... Basta questo sole che... porta fastidi e eritemi. Vogliamo un paese, ma un'Europa, un mondo più mortificato, e perché non partire su questo? Sono d'accordo. Smog e nuvole dappertutto, tecnica, tecnologia, cemento e soprattutto meno natura, perché la natura uccide l'uomo, lo sanno tutti, dove c'è più natura c'è meno uomo. Ecco, caro Matteo Sbano, in questo momento, diciamo, il pubblico pensa che Matteo Gualdi stia vincendo la trasmissione, questa è un po' allora, intanto, perché il pubblico non ha l'olfatto tramite il mezzo televisivo, quindi non può rendersi conto dei livelli di etile che ha raggiunto questo mio... Vabbè, questo però non è corretto. Innanzitutto uomo... Era corretto al Sambuco, glielo dico io. Perché non abbiamo l'effezione del bullo. Uomo di alcolanza, uomo di sostanza. Quindi grazie signore, grazie. Sì, le calzerete, brava le calzerete, brava. Questo signore qui alla mia destra, perché non a caso sta a destra, perché è un fascista. No, assolutamente no. Lei deve sapere che noi siamo contro i fascisti. Dico, tre volte che si opera di appendiciti con i soldi dei contribuenti. E non me la faccio togliere. Quanti appendiciti già? Ne ho tantissime. Guardi, basta vedere le presenze in Parlamento. Ogni volta che c'è da votare... Quale Parlamento? È importante anche sapere. Intanto salutiamo anche Pier G e Rizzard che ci salutano. Scusate, però è un dovere di... Ma questa gente che interrompe in comizio elettorale è così importante. Comizio, questa è una trasmissione, è un'intervista, anzi, diciamo, è un faccia a faccia, diciamo così. Faccia a faccia a lei e a sua sorella. Partiamo da quelle che sono le istanze irrisolte di generazioni perdute. Partiamo da quello, perché a furia di prenderla a ridere... Si è perso l'orizzonte. Io non ho capito di che cosa dobbiamo parlare. Il patriottismo. Allora, lei mette un patriota qui nella patria. Grazie. Mette un patriota che si riproduce e fa due patrioti. Ma lei vuole mettere la poeticità di questa cosa, della divisione del patriottismo? Ecco, invece mi interessa sapere che cosa ne pensa Italia Mortificata, che è un, diciamo, un distaccamento dal partito demografico, che sta lì e comunque un po' ne trae un po' l'ispirazione culturale. Cioè, cosa ne pensa di questa questione della guerra in Turchia, anzi in Siria, da parte della Turchia, insomma? Noi siamo mortificati del fatto che in Turchia non ci sia una guerra e ci impegniamo a farla esplodere il prima possibile. Votateci e la Turchia... No, ma c'è già la guerra. Scusi, lei non è informato, però, scusi. No, in Turchia non mi risulta. Guardi, c'è la guerra o non c'è la guerra? E soprattutto, voi non cosa è ne... No, una però guerra. Mi scusi, signor Pizzul, lei palesemente... Non è equidistante, lei propende verso... Assolutamente verso, no, perché... Ma guardi, lei, no, se lei dice questa cosa, guerra... Mi fa ridere, guardi, mi fa ridere, anche il pubblico ride, vede? Ridete? Cioè, scimmietta ammaestrata, io non ho parole, non riesco neanche a mortificarmi. Io li ho pagati tutti per essere equi, queste persone, per cui sia tranquillo che sono equi, giusto? Equi giusto? Applauso! Allora, ci dia conto di questi 49 milioni di equi che lei ha sottratto alle casse del... Li restituirò in comode rate nei prossimi 80 anni. Scusate, stavamo parlando della Turchia, della Siria. La Turchia innanzitutto non esiste perché è un problema di... Lei lo sa, lei mi insegna, è un problema di patriottismo. In Turchia ci sono i patrioti turchi, dalle altre parti no, e quindi bisogna esportare il patriottismo. È così che funziona il patriottismo, bisogna esportarlo perché gli altri siano patriottici. Esposarlo, esatto, è tutta una questione di patriottismo. Noi siamo per le riunioni civili, per esempio, ci tengo a sottolinearlo, basta con questo stereotipo, questo luogo comune ecclesiale che bisogna sposarsi in su questo sono d'accordo, però anche quelle in civili, cioè quando tu vai davanti al sindaco e ti mandi un po' a fanculo, lo puoi fare, perché tutta questa civiltà, insomma, cioè... No, tutto sommato, anche un po' in civili va bene. Questo gergo, però, non cerchiamo di mantenere. Questa è la pancia, che questo è l'italiano che vuole la pancia. Io purtroppo posso solo che accontentarli. Quindi, assolutamente, unioni civili, ma anche quelle in civili. Vede qual va benissimo. Vede qual è il qualunquismo, ma poi anche grazie. Ci vediamo dopo, signore. Grazie. La vecchia politica. Noi al nostro popolo non proponiamo soltanto la pancia, noi proponiamo tutto il culo. Il culo, No, scusate. Scusate, mi è uscita, non volevo, scusate, mi è uscita. Infatti a lei le escono proprio dal culo, se lo faccio. No. Questo no. Adesso lei mi fa parlare, perché è tutta una questione agroalimentare. Sono 20 minuti che parlo. E non dice niente, non c'è sostanza. Ed anche il quinto quarto. Perché nella politica il quinto quarto non si è mai speso, è ora di spenderlo. No, io non so neanche cosa sia un il quinto quarto. Il panino con il lampredotto, abbiamo anche quello. Sì, ma bisogna difenderlo. Lei lo difende il panino con il lampredotto? Il panino con il lampredotto si difende da sé. No, bisogna difenderlo, bisogna andare in Europa e sbattere le mani. Bisogna sbattere le mani, così? Cos'è? È lampredotto. Qualcuno ha ingoiato un gufo, cosa succede? Cos'è? Un lampredotto, che cos'è? Scusate, mentre noi giustamente dalla regia stiamo cercando di addestrare il pubblico, però abbiamo commesso degli errori, insomma. Che cos'è? Vabbè, non ci interessa, queste cose sono brutte. Non si può, cioè io sto cercando bu. Guardi, io glielo dico, io la prossima volta vado dalla Turzo, che mi fa anche un servizietto in camerino. Quindi, No. Innanzitutto qui però il pubblico l'approva. La luce è pessima in questo studio e si vedono tutte le nostre rughine. Questa cosa non è bella, quindi non siamo, è patriottica. Siamo passati praticamente dai patrioti turchi, quindi a una giustificazione dell'invasione. Vanno aiutati voi, a casa loro. Voi la giustificate questa invasione? Perché vanno aiutati a casa loro. I patrioti vanno aiutati a casa loro. Sono d'accordo. Non possiamo aiutare i nostri patrioti da un'altra parte. Invece Italia Mortificata non è d'accordo, o è d'accordo pure voi? Su cosa, mi scusi? Cioè, ma stiamo parlando del nulla, si rende conto che stiamo parlando e del nulla? Pensi che non sia importante? La domanda, quella più toccante, che gli italiani oggi sono attentissimi a questa cosa, e glielo domando a lei, signor Matteo Sbano. Con mortificazione. Ok, però la famiglia tradizionale. Attenzione, che qui quello che voi dite potrebbe essere chiaramente determinante. Io ho sempre detto: noi siamo per le unioni civili, non impediamo a nessuno di avere una visione più tradizionalista della famiglia. L'importante è avere sempre almeno un amante per famiglia. Lo capiamo, perché è una tradizione che non possiamo sconquassare dalla sera alla mattina. Ma è patriottica l'amante? Guardi, per noi. gli alieni. È il bu, è il bu. Vabbè, secondo me questo era un UFO. Sì, gli UFI. Per noi, guardi, vanno bene anche dell'est Europa, le amanti, non è un problema perché siamo... Ma siamo e lei mi porta gli extracomunitari. Noi siamo aperti. Guardi, noi siamo aperti a una visione europeista dell'adulterio. Quindi, assolutamente. L'est, quale est? L'est Europa? Che ci vengano a rubare le amanti qui in Italia? No. Quindi, la Lega ottimista. Vede qual è il problema? Guardi, come la vede questa questione? Io vorrei. Non percepiscono le opportunità. Mi diano solo 5 minuti per spiegare perché mi è stato. 5 minuti sono troppi. Purtroppo, abbiamo 2 minuti a tempo per ognuno di voi. Mi è stato detto in passato che la nostra Lega, la Lega ottimista, è razzista. No. Mi è stato detto in passato che la nostra Lega è contro ciò che non è visto tradizionalmente dall'italiano medio. No, non è così. Noi siamo per l'utilizzo delle parole giuste. Noi siamo per sdoganare questo razzismo e questo politica di corretto. Quali sarebbero però queste? Andiamo però, lei perché dice negro. Queste parole che sono... Negro. Ma noi ci piacciono. Cioè perché dire questa cosa cattiva? Guardi. Cosa ne pensa invece l'Italia? Sono tranquillo. Mortificato della parola negro. No, ma io glielo dico senza slogan, ma con un concetto. Noi contrasteremo l'italiano medio col meglio dell'italiano. Esatto. Per questa potrebbe essere bella, però... Questa c'è, non vuol dire un cazzo, ma, esatto, cioè, ma ci è piaciuta veramente. Mi piace perché c'è un, non c'è ha trovato un alleato. Questo è bellissimo. E anche quest'altra cosa, i frosci. Cioè, perché tu pensate che questa però, parola scusi, è cattiva? Mi permette, ma è una parola poi antica. È antica, che significa saggezza. Ma io dico, perché sdoganiamolo? Usiamo le parole, diamo loro un senso più leggero. Cioè, noi pensiamo della Lega ottimista che il futuro sia dei negri e dei frosci. Sarà un mondo fatto solo di negri e di frosci, sarà un mondo bellissimo, sarà stupendo, sarà un mondo di pace e armonia. E saranno, si fonderanno adesso lei ha finito il i suo negroci. Sarà bellissimo. Un mondo bellissimo. Ma sarà un mondo a casa loro. A casa loro. A casa loro. E cosa ne pensa invece l'Italia mortificata? Guardi, io. Qui il mio avversario cerca quasi di celare il suo passato, no? Come se noi tutti non che era negro lui. No, tutti sappiamo che suo padre era un negro frocio. E infatti ci domandiamo come sia successo. Eppure deve capire che grazie all'intervento poderoso di una volenterosa risorsa che dall'est Europa arrivava e permetteva la fecondazio, lei è comunque venuta al mondo con un'estrema mortificazione. Vedi, innanzitutto l'ha messa al sacco. Innanzitutto io non ho un padre. E questo è quello che dice lei. Io non ne ho mai avuto uno, ma sa ne ho avuto perché, più di uno. Sa quali sono i miei padri? Sono i padri costituenti della Costituzione italiana. Lei è il Grazie. E sa perché lei è il fratello di Pinocchio, non soltanto perché dice un mare di bugie, perché ma perché mi si allunga il cazzo. Sera. Grazie. E sa grazie. Quando le si allunga sì, signora, il cazzo, brava, quando brava. Dice bugie, esatto. Lei è un però, scusa, si sposti che le arriva sul naso. Mi permetta, Smano. Io dico che lei stava recuperando perché stava dicendo delle cose intelligenti. Ma non mi fa parlare. Però, dai, la stanculata. Mi dispiace, ma l'uomo comune. Allora, per ragioni tecniche in questo momento io devo interrompere questa tribuna politica. Mando un attimo un brano, ma torniamo fra meno di un minuto e mezzo. Scusate soltanto. I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree. Ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me. Psychically in tune to the stars. We already are, you and me. Psychically in tune to the. We'll be right back. Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise. And through the world's pain and all the lies, we will grow a garden every time. Allora, mi dicono dalla regia: ammazza che schifo sta canzone. E, però io in realtà non sono neanche, neanche d'accordo, insomma. Però rientriamo, perché abbiamo avuto proprio delle necessità tecniche. Spero che, insomma, i nostri ascoltatori non si siano annoiati. Ma è come quando lanciamo la pubblicità, tutto sommato. E quindi vabbè, e torniamo un attimo. Stavamo parlando con l'Italia mortificata qui, e ci stava dicendo, stava cercando di contrastare il pensiero di Gualdi, però non ci riusciva perché Gualdi gli parlava sopra. No, Gualdi, allora, non c'è un pensiero nel fondo di tutta questa dissertazione quasi post-ideologica, ma veramente delirante dovuta all'alcol. Adesso io, se voi mi fate riassumere 5 bit, però, vabbè. I punti programmatici del... Anche dei punti, mentre sarò volcettiamo di questi punti. Allora, cominciamo dal primo punto del nostro programma: l'abolizione del congiuntivo. Beh, questo ci siete già riusciti da parecchio. Una volta. Funziona perfettamente. Ma lei mi viene a dire che noi siamo riusciti a abolire il congiuntivo? Assolutamente. Lei non mi sa, sì, coniugare neanche l'imperfetto. La prima persona è l'imperfetto come lei. Ma nessuno è imperfetto. Bisogna essere perfetti. Vedete che il pubblico si sta ascoltando. Lei mi parla comunque di grammatica. La grammatica è per i poveracci. Ok, riprendiamo. Poi il pubblico si incazza. Guardi che se questo è un paese mortificato e di poveracci, perché voi gli avete messo le mani in tasca? Noi per stiamo pensando ad abbassare le tasse. Stiamo pensando al cuneo fiscale che si è infilato nel cuneo sbagliato. E lei mi parla di congiuntivi. Che non è mai il vostro. Che voi parla di congiuntivi. Questi congiuntivi. Ma chi se ne frega dei congiuntivi? Toglieteli. Doppiateli, fate come vi pare. Ma infatti li toglieremo e sarà un paese migliore. Noi sarà faremo una cosa che... migliore. Noi incentiveremo l'uso del congiuntivo attraverso una politica fiscale. E meno coniughi, se è capace. Forza. La gente è anche scontenta di... attenzione. Mi dica il gerundio di armare. Armario. Armando. Armando chi? Armando i turchi. E qui torniamo a bomba, dobbiamo armare i turchi. Ho capito, ma lei parla per stereotipi, se lo faccia dire, che diamine. Allora, innanzitutto andrò a vedere su internet cosa significa e partirà la querela, io glielo dico. A me stereotipi non me l'ha detto nessuno. Guardi, lei non mi fa paura, ho una schiera di avvocati che magari avesse quel problema. Di che? Della paura? Qui sì. Adesso si faccio queste cose, buono. Però il pubblico era partito con l'ovazione. Ci hai ripensato, perché questa cosa della politica legata alla cosa brutta. Comunque aumenteremo brutta. Il PIL del 5% vietando le cerette. Bravo. Il pilo. Esatto. Vietando le cerette. Ma voi aumenterete le tasse su queste cose. Su queste cose voi aumenterete le tasse. Come al solito sono le donne a pagare. E poi no, per una volta pagano le donne. Almeno per una volta non è lei che paga le donne, se lo faccia dire. Sono le donne che mi pagano normalmente. Che battuta di squallido gusto, non è piaciuta al pubblico. Guardi, non è una battuta di squallido gusto, è la verità. E la verità alle volte fa male. Ora mi faccia dire un altro punto fondamentale del nostro programma, che è la politica estera. Ah sì, ci interessa. Noi eravamo partiti. Interessante. Vediamola questa politica estera. Guardi, me la faccia vedere questa politica. Parli pure della politica estera. Cos'è questa politica estera? Che ovvero abbassiamo le tasse e poi buttiamo lì la politica estera. E gli italiani non ci pensiamo. Guardi, è molto semplice. È la politica italiana, non ci pensiamo. Subito a parlare con l'estero. Ah, bello estero, come stai? Tutto a posto? Eh? E guarda come andava, come stanno i figli? Hanno trovato lavoro, te li trovo io. Basta, la conoscenza. Guardi, basta, lo faccio. Una persona di un'arroganza unica, una cosa inquietante, veramente. Infatti, questa... a volte è un po' fastidioso. Peraltro, però. Vabbè, questa... ma mi si tocca la politica estera. Ma guardi, ma lei si tocchi, si tocchi in camerino, faccia il piacere. Perché con quelle manine lì viscide fa anche un po' senso, se lo faccio dire. Io le mie manine le metto in posti dove dico io. Lo sappiamo dove se le mette, sappiamo bene dove erano fino a 5 minuti fa le sue manine. Le mie manine stavano stringendo le sue mani. Ma chi l'ha mai toccato? Ma che schifo, cioè. Allora non erano le sue mani, la cosa mi fa schifo anche a me un pochino. Quindi andiamo avanti, parliamo di questa politica estera, forza. Fino a 5 minuti fa non si lamentava però. E vabbè, la politica estera, molto semplice, 5 miliardi di extragettito, venderemo carri armatini per saltare la Kamchatka alla Turchia. No. Diciamo che il pubblico ha gradito, ma no, assolutamente non si possono rilanceremo vendere carri armatini. L'industria pesante nazionale, ma mi scusi, con ma la produzione il suo, cingolati. Il suo collega, anche se avversario, non aveva stretto un patto d'alleanza con la Kamchatka? E vorrei come, dire... come ci mettiamo poi di fronte al fatto che abbiamo degli impegni internazionali, come noi dice lei, abbiamo no? Internazionale, lei parla armi di cose internazionali. Ma che semplice, perché se ci fosse un governo di coalizione, se ci fosse la lungimiranza di avere a cuore solo ed esclusivamente gli interessi del paese, io schiero 3 carri armatini, lui schiera 3 carri armatini, abbiamo venduto 6 carri armatini, è semplice. È esattamente ciò che faremo, infatti noi schiereremo più carri armatini dei vostri, così sarete costretti a dare ancora più carri armatini. Vede, no, che lei non capisce. No, che... vede Gualdi, non stanno apprezzando. Lei non capisce che l'unico modo di vincere è non giocare. No, l'unico modo di vincere è avere dati truccati. Signori, applauso. Ho detto applauso, lo altrimenti vede, no. Ma ormai non partiranno i 40. La sua fanfara. Ricordatevi che ho 49 milioni da darvi, ok? No, hai 49 milioni che hai sottratto, quindi non è che al limite ce li ridai. Partiamo da questo. Incomoderate. Quindi tanto comincia a ridare. Sì, sì, incomoderate. Detto questo, sente che i primi carri armatini stanno già facendo. Questi non sono carri armatini, questi. Però noi, a proposito dei temporali, abbiamo intenzione di mettere una tassa per disincentivare il cattivo tempo, perché il cattivo tempo è un problema per gli italiani. Gli italiani quando vanno in vacanza trovano il fine settimana, no, scusa, trovano però, sempre però il cattivo tempo. Mi deve permettere lo straniero, lei è un fanfarone, lo straniero che viene in Italia e trova il cattivo tempo ci porta del danno, no, se no, non torna più la volta andare, dopo no, non no, torna più. Io non lo posso accettare. E noi tassiamo il cattivo tempo. Lo deve far parlare, signor Guado, lo deve far parlare. Se no mi devo chiuderle il microfono. Questa volta Gabbana io non lo posso accettare, perché lei 5 minuti fa, scarsi, ha affermato insieme a me che uno dei punti fermi su cui si può fare un governo e su cui l'opposizione non si sarebbe ribellata era quella che per favorire, per incentivare lo sviluppo del paese basta con il sole, lo avevamo detto, lo ha detto anche lei, per favorire l'industria basta sole, adesso cosa mi viene a dire? Ha ragione, ma no, nel frattempo bisogna anche dire che il tempo è cambiato e adesso il pubblico vuole più sole, mi spiace. Guardi, questa cosa. Ma il pubblico vuole questo. No, non ci sono più mezze stagioni, lei non può uscire. Assolutamente, adesso il pubblico vuole più sole perché in questo momento il sole ci porta i soldi. Non volete soldi? Allora non volete soldi, allora voi volete tornare nel terzo mondo. Quello che qui ci vogliono portare questi qui dell'Italia fortificata, il terzo mondo. Come la Grecia. Quando uno dice la Grecia, subito capiscono che forse è meglio non andare verso. Mi permetta, perché questo è uno dei capisaldi del nostro programma. La Grecia, che in greco antico significa saggezza. Ma mi permetta di dirlo, uno dei punti cardine del nostro programma, e l'abbiamo sempre detto, non è una novità di oggi, non me lo sto inventando. Meno Grecia, più Gricia! La Grecia è sopravvalutata. No. È assolutamente sopravvalutata. Questo è il suo problema alimentare. L'italiano ha a disposizione il più grande patrimonio di culinaria del mondo. Di culinaria ci piacciono. Assolutamente. Quindi noi faremo questi concorsi di culinaria. Ed è per questo in cui ci sarà culinaria per tutti. Ed è per questo che per favorire il progresso e lo sviluppo. Per far cosa? Scusi, che non abbiamo mai capito. Per far? i culi in aria torneranno utili grazie a un progetto di incentivazione, perché ci sarà un contributo di 200 euro a famiglia per quelle famiglie che decideranno di rottamare la vecchia bicicletta, ne compreranno una nuova e grazie ai culi in aria le potremo parcheggiare. Ah, bene, bene. Pensa, abbiamo una cosa simile. Abbiamo anche noi una cosa simile, però... Perché voi non sapete fare altro che copiare i programmi, realtà, che funzionano. No, voi siete i cinesi d'Italia. Noi miglioriamo. Vabbè, però così, gli errori. Così discrimina i cinesi. Esatto, no? Noi miglioriamo le cose. Noi abbiamo intenzione di far rottamare i vecchi culi direttamente per nuovi culi. Daremo un bonus bebè di 400 euro per i vecchi culi. Per fargli, lo vede che neanche lo sa che dal culo al bebè non si può fare? Lo vede che lei è un ignorante? Questo è quello che pensa lei. Ci sono tante persone nate dal culo. Lei non se lo immagina, non figlio di parto anale, che esatto, non è altro. Esatto, quindi tranquilli, noi questo bonus lo daremo a tutti gli italiani che vogliono cambiare il culo e farne uno nuovo. Purtroppo in questo momento hanno dovuto staccare i microfoni al pubblico, però ecco, sono tornato. Donna, tu che hai il culo brutto, ti do 400 euro per cambiarlo. Attenzione, ragazzi. E non sono promesse, sono solide realtà queste. Guardi, lei è reale come i capelli di Cesare Ragazzi, se lo faccia dire. Ma lui era, Cesare ormai... Ragazzi era un grande patriota. Guardi, che ha fatto in modo che l'industria diciamo della plastica italiana avesse un boost negli anni 80 incredibile. Quindi lei ne parli bene di certa gente che veramente ha creato un indotto non indifferente. Scusi, ma che c'entra? Che c'entra la plastica o Cesare Ragazzi? Scusa. Ma glielo dico io, perché lui è azionista, lui ha un interesse personale, lui ha un conflitto di interessi. Cesare Ragazzi aveva un'idea per la testa e quell'idea era di plastica, quindi andiamo avanti, ragazzi, che insomma ci abbiamo fatto i soldi con Cesare Ragazzi, tutte le persone che si sono messe in testa la stessa idea. Comunque andiamo avanti, per queste cose d'estera, mi dica, questa politica estera io non l'ho capita, cioè dare dei carri armati così a casaccio. Ma quando mai a casaccio? L'importante è armare pariteticamente tutte le fazioni in campo. Cioè, lei deve però parlare a un pubblico che è quello di oggi, il pubblico di Facebook, il pubblico di Tinder, il pubblico di... Assolutamente. Ce l'ho io, gattini per tutti. Gattini, adorabili gattini, che fanno le fusa. Grazie. Grazie signora, sì, no signora, no, buona, no, quello no, quello lo facciamo dopo, no signora. Guardi, perché... questo vede... Torni a sedere. Questo è becero populismo, è becero populismo e lo capirebbe anche un ascoltatore di 6 anni. Noi con la nostra scusi di un attimo, si può spostare un secondo? Si sposti un attimo, mi blocca la luce, sto mangiando il panino, sto facendo le foto per Instagram, lei mi interrompe, mi blocca la luce, aspetti, così, ecco qua. Allora, come hashtag Micino Panino. Capito? Perché perché in realtà lui è un vicentino, mangia i gatti, l'ho appena detto. Grazie. E noi continuiamo a far passare questi messaggi subliminali come fossero Vincenzo, sì, scusate, no, io sto parlando con il mio segretario. Vincenzo, ho appena un'idea. Gatti nel panino. Gatti, segna questo, gatti nel panino, non c'è un nuovo hashtag. Vabbè, però io sì, voglio assolutamente, pretendo, perché altrimenti sono costretto a lasciare la linea al telegiornale, tornare a parlare. Scusa, c'era un collegamento col Santiago Bernabeu. Vorrei tornare a parlare di politica, perché sì, abbiamo parlato di gattini, abbiamo parlato di Instagram. Guardi, il tono dell'argomento, il tenore della domanda è dato dall'avversario. Lo capisco, però anche lei non è che si può elevare sopra, perché noi ci sta facendo una bella figura. Cioè, guardi, noi perché grazie al nostro programma di progresso e di evoluzione culturale rilanceremo, basta gattini, rilanceremo la figura dello scarabeo Stercoraro. Non piace questa cosa. Scarabeo Stercoraro è vecchio. Il giusto equilibrio di mortificazione. È vecchio, è faraonico, vecchio. Io tornerei. Lei vuole tornare alle piramidi, ai faraoni, agli sperperi, al sovrano Dio. Vincenzo, scusa, il sovrano di Dio comunque è una cosa che potremmo utilizzare nei nostri social, magari se ci danno potere assoluto. Si rende conto che proprio, cioè, scusa, no, no, andate avanti, andate avanti, no, no, che cioè, lo chiudiamo, se vuoi lo chiudiamo, rispetto possiamo chiudere, cioè, proprio una strafottenza politica che poi si riflette in quello. Sto che, prendendo appunti, sto prendendo appunti col mio segretario, lei vada avanti, dica quelle sue puttanate, non a caso lei ha fatto il colpaccio prendendosi un governo di cui non era neanche il primo rappresentante, con un colpo di mano, un colpo di stato che non è riuscito. Il popolo ha deciso. Ha deciso che deve andare a casa. Il popolo ha deciso, anzi, questo che c'è adesso è un governo assolutamente iniquo e che la gente non vuole. Qualcuno l'ha votato? Pensate, no, che mi era venuta in mente una domanda pressante per quanto riguarda l'attualità attuale, però me l'avete fatta dimenticare per le vostre battibecchi inutili che alla fine, lo possiamo dire, agli italiani fanno schifo queste cose. Matteo, io te l'ho detto, andiamo dalla Turso. Andiamo da Pizzo. Ci andiamo dopo dalla Turso. Fate già preso schifo, schifo, fate schifo. Adesso è ora che anche i conduttori televisivi abbiano una propria posizione politica in campo. E si metta a 90, faccia è la posizione di default. Assolutamente, adesso facciamo delle foto. Sì, sì, ok. No, no, sì, ma smetta di mettersi a 90, però. No, cioè, poi, no così no. Il piede, abbracciati al piede. No, non sono peloso. No, non sono. Ok, grazie. Sì, ho capito, ma questo avrà mezzo secondo. Che foto vengono fuori? Io. Ho capito, scusa. No, niente, parole tecnicismi, ma lei che ne può sapere di apertura. Certo, perché io mi sto preoccupando dei problemi italiani e voi state dicendo delle sciocchezze inutili solo per insultare chiunque. Matteo Sbano, ma io ho come l'impressione che questa persona che con cui noi stiamo parlando abbia come intenzione di fondare un suo partito. Diciamoci la verità, adesso non sapete farsi il neanche suo partito. Parlare italiano. Adesso siamo quelli che vogliamo abolire il congiuntivo, scusi, insomma, o tassarne l'uso. Ma lei vuole fare il suo partito politico, allora quindi vuole dire che vuole scendere in campo per fare il suo partito politico? No, però è ora che un giornalista serio che vuole affrontare in televisione con due persone, due importanti partiti italiani, riesca a fare un'intervista seria. Invece voi vi state soltanto insultando. Posso dire che innanzitutto ci servirebbe un giornalista serio. Guardi, collega, grazie. Mi permetto, guardi, io perché è vero che sono mortificato, però sono anche sempre, come dire, disposto a dire con la meditazione, mi accontenterei di un giornalista, guardi. Guardi, io, lei di default lo sa che... Esatto. Lei che si è tolto tutti i nei con i soldi del canone, se lo faccio dire, cioè basta, diciamole le cose una volta. Non ci siamo, questa è una trasmissione faziosa, assolutamente faziosa. A questo punto qualcuno deve qualcuno deve tirare un bicchiere d'acqua addosso a qualcuno e tirare fuori l'uccello. Questo sta diventando più purista di noi, cioè che dobbiamo fare qualcosa. C'è una trattoria qua dietro che fa una carbonara che è sempre meglio. No? Allora mi arriva intanto una velina dalla direzione, anzi dalla redazione, che mi dice che se io scendessi in campo in questo momento prenderei il 35%. Ma sono rimasto da solo, va bene, grazie pubblico, veramente bellissimo tutto questo, però diciamo che è finita qua la trasmissione, perché qui se ne sono andati tutti lo so, buh, anche io penso, perché alla fine questa è un po' la situazione, però non so cosa fare, e adesso chiedo alla regia cosa posso fare adesso. Niente, andiamo. Metti un pappa! Ah, ok, allora niente, allora lasciamo, insomma, andiamo avanti con sempre il Santiago Bernabéu sotto, e quando chiudiamo il collegamento a Santiago Bernabéu ci occuperemo di questo argomento qua. Trumpappa. Non so cosa sia partito. Preso un po' la sprovvista, ragà. Trump sta fuori come un barcone. Sta fuori come un barcone. Ma come un barcone di immigrati, proprio, non come un balcone. Però io direi che a volte, secondo me, questa è la mia visione, a volte è un problema d'alimentazione. No, che non prende la pasticca. È che l'alimentazione, quando non attacchi bene la batteria al 220, non va. Ma no, ma tu gli dovresti dare una bella folgorata. Lui, no, no, lui l'attacca alla 220, no, ma non c'ha l'inverter, capito? Ragazzi, cioè. Trump lo devi attaccare alla 380, non c'è. Può essere, ah, questo è una fulminata veloce. Secondo me Trump c'ha dentro attaccato un... Tanto a me, no. No, come posso dire, una sorta di mini... Come si chiamano quelli? Defibrillatore. Un pacemaker. No, ci sono i pacemaker che defibrillano in caso di necessità. Esatto, eh? Esatto. Lui è, capito, e c'ha questa cosa che gli manda. Vi racconto. Vabbè, di quello, scusa, di quel cliente che aveva il defibrillatore, quello ragazzi. Con il defibrillatore o quello con la pompetta? Tutte e due. Beh, diciamo che poi dall'altro, allora, posso dire una cosa, non c'entra niente con Trumpappà. Però a un certo punto tutti quanti, come abbiamo fatto anche nella trasmissione che avete sentito prima, insomma, interessante trasmissione di approfondimento tra due politici, insomma, due leader di due partiti che sono, hanno una propria posizione all'interno del paese, e ci si, la prima domanda era quella relativa ai problemi climatici generali, no, globali, che poi ovviamente vengono oggi affrontati da una ragazzina, e hanno chiesto a Berlusconi: lei cosa ne pensa di Greta? Però gli hanno chiesto solo cosa ne pensa di Greta, perché non si ricordavano manco il cognome. Ah, Greta, me la sono trombata, è una bambina. No, lui fa, dice: no, Greta, non è quella Greta. No, Greta. E cominciato a raccontare. Perché praticamente si è ricordato di una Greta che... No, lui ha raccontato un episodio, così non c'entrava un cazzo. Una minetizia, sì. Teniamocela da parte. No, perché lui ha cominciato a raccontare un episodio, tra l'altro facendo fa pure la figura di merda a un suo parlamentare, tra l'altro. Ah, non era mai successo. Dove praticamente sto parlamentare era andato lì, che doveva andare a fare dovevano andare in Svezia a fare una specie di non so che cosa. E questo voleva il Viagra. Poi Berlusconi faceva finta di non sapere che cosa, come si dice Viagra, cioè nel senso quella pillola lì, quella pillola, sì, il Viagra, sì, non so come si chiama, ma sì, Berlusconi. Viagra, che è quella personalizzata, sì, esatto, lui si chiama, la sua si chiama Berlusconi Agra. E vabbè, e racconta questa storia di questi qua che erano andato lì, e però dice: no, ne possiamo da tutte ste pasticche, perché questo poi c'è schioppa a un suo parlamentare di Forza Italia, una cosa bellissima, che era lì tra l'altro in sala, che doveva essere contentissimo da queste. E allora gli dice: no, vabbè, ma diamogli queste pasticche qua, che sono dei placebo. Gli diciamo: guarda, no, va bene, funziona tutto. Diciamo, quando è ritornato, gli abbiamo detto: com'è andata? Lui faceva col gesto con la mano, tutti ammazza. Allora è andata proprio bene, no, una bella figura di merda. E questa è la risposta di Berlusconi alla domanda: che cosa ne pensa di Greta e dei problemi climatici? Vabbè, ma Berlusconi è, come dire, è completamente perso ormai, non ci possiamo, perché ricordiamoci che per Berlusconi le svedesi sono carne da scopo, da scopaggio, quindi no, ci ha scopato una Greta qualche tempo fa, negli anni 70 si è scopata una Greta, e che cosa pensa di Greta e del cambiamento climatico? E lui si è ricordato quando stava in Svezia con Greta Basvingeder. Ah, però. Praticamente si è scopata un armadietto dell'Ikea. Esatto, una cosa del genere. Troika Ban. E praticamente gli è venuta in mente questa battuta, questa bellissima e divertentissima battuta. Perché, cioè, non c'ha senso. Che è una battuta che sicuramente includerà nella sua biografia l'uomo della Fdauscia. L'uomo della Fdauscia. No, invece Trump il bisunto da Dio, perché sapete che c'è Mattarella in questi giorni a colloquio negli Stati Uniti. No, aspetta, con lui. Non è, però precisiamo, non è che sta messo peggio perché c'è Mattarella. A prescindere, no, sta messo male per far capire quanto sta male, raccontava l'episodio, sì, di Mattarella. Sì, nel senso che Mattarella, insomma, è andato lì cercando di trovare una mediazione per evitare che ci sia una guerra dei dazi tra gli Stati Uniti e l'Europa, e lui ha cominciato a praticamente, come dire, a rinfacciare cose che poi non so neanche quanto storicamente siano veramente attendibili, ma comunque, diciamo, l'esaltazione è stata di dire che sostanzialmente lui è arrabbiato perché l'Europa praticamente si è approfittata dei suoi predecessori, perché dovete capire che prima dell'arrivo di sto volpone della politica, ovviamente i presidenti americani prima di lui, scusa, ma mi è saltato un link. Quando ha detto volpone della politica, lui oggi si è definito uno dei più grandi politici presidenti della storia, che senza di lui le prossime elezioni, che non possono vincere gli altri perché sono dei mentecatti, l'America finirà come nel, sì, 29, come nel baratro, perché solo lui, la sua intelligenza sovrumana, può salvarli. Vabbè, cioè, ragazzi, anche Berlusconi si è definito il più grande statista del XX secolo. Stratista, era, sì, stratista. Esatto, quindi voglio dire, non è che... Ma la cosa più bella, però, diciamo che Trump l'ha fatta con... la Siria, perché praticamente ha detto: noi qui se ne andiamo. Allora la Turchia ha detto: vabbè, allora noi attacchiamo i curdi. E vabbè, attaccati i curdi, a noi che cazzo ce ne frega, noi se ne andiamo. Però subito dopo il Pentagono ha detto: Trump, ma che cazzo stai a dire? Cioè, non è che tu what puoi... the fuck? Certo. What the fuck? Però lui comunque alla fine se n'è andato e quelli là hanno cominciato ad attaccare. E tutti si domandavano: vabbè, ma Trump, ma insomma, ma lei non è che se n'è andato, hanno fatto il passino di lato, l'hanno fatti passare e si sono rimessi a esatto. posto loro. Di fatto era... no, perché in teoria loro se ne dovrebbero andare, e questo è il discorso. Poi alla fine no. era l'alligalli, ragazzi. La domanda era: vabbè, ma era perché cosa ne pensa di questa situazione che sta succedendo adesso in Turchia? Lui ha detto, più o meno testuali parole, che i curdi gli stanno simpatici, che lui non c'ha assolutamente niente contro i curdi, ma... che però non ci hanno aiutato nella seconda guerra mondiale, nello sbarco in Normandia, non capisco in che modo avrebbero potuto farlo, però. Però non è per quello che io, perché a me comunque, cioè, nonostante mi stanno simpatici i curdi, però se li ammazzano, so cose che capitano. No, vabbè, comunque ragazzi, veramente a proposito, vi racconto una barzelletta. La sapete quella... No, quella del Viagra, no, basta. No, no, la sapete quella della moglie del diplomatico americano che investe un cittadino inglese e lo uccide in Inghilterra? No. No? Beh, in realtà è successo davvero. E, è successo che la moglie del diplomatico americano ha investito e ucciso, poverino, un ragazzo inglese in Gran Bretagna. E Trump ha detto: guida dall'altra parte, uno si sbaglia. Può capitare quando improvvisamente devi guidare a sinistra. Esatto, è successo anche a me. Cioè, ha ucciso qualcuno. No, cioè, non lo sappiamo, però. Cioè, la sua giustificazione è: vabbè, succede, ragazzi, può succedere. Oh, ragazzi, succedere. C'è zio Mischi. Ragazzi, zio Mischi. Che... Ma scusa, ma voglio dire, vi ricordate che zio Mischi. Che cazzo vabbè, dici? Zio Mischi, bella zio. E poi c'è sta Lobby Frontali. Salutiamo Pier G e ovviamente anche Davide Gatti. Ciao. Voglio dire, vi ricordate che tu stai esordendo nella maniera sbagliata. Non puoi dire vi ricordate, è sbagliato. Cioè, come dirlo, basta. Noi abbiamo un ex reggente, quindi diciamo l'erede al trono dell'ex monarchia italiana, che durante una battuta di caccia ha fatto fuori uno. Solo che questa cosa fu completamente insabbiata col fatto che lui era in realtà, tra l'altro, lui era in esilio e non ci poteva neanche stare in battuta di caccia se non era in Sardegna o dove è successo. E comunque su un'isola tra la Sicilia e la Sardegna, se non ricordo, quella cosa fu fatta, diciamo, seppellire sotto n strati di terreno nei decenni, ma in realtà lui fondamentalmente si è reso di fatto responsabile di un omicidio per il quale non è mai stato neanche processato. Vabbè, diciamo incidente, dai. Incidente di caccia, che purtroppo è successo. Può succedere, è successo anche a me. A tante persone, in tante occasioni. Trump. Anche perché, cioè, non è che il... diciamo l'erede al trono di una nazione come l'Italia, quindi sarebbe diventato il nostro re, ce l'ha con gli italiani, gli spara agli italiani. E che succede, concetto è che se tu sei un uomo di potere o comunque di establishment, abbiamo capito il concetto, stiamo ironizzando, cattoia. Comunque, però diciamo che se fosse diventato re non l'avrebbe mai fatto quella battuta e quell'uomo sarebbe ancora vivo. Guarda, io ti devo dire la verità, che dopo la seconda guerra mondiale, quando c'è stato il referendum, secondo me non avrebbe potuto diventare perché io avrei fatto una cosa tipo i Romanov. Però non si dice questa cosa, no, una cosa brutta, una bella cesta, brutte cose, brutte proprio. Però lo penso, ma non lo dico, io trovo che poche delle cose fatte dai francesi abbiano una dignità universale, ma una delle cose che i francesi hanno fatto alla quale attribuiscono una dignità è la ghigliottina. Esatto, cioè, rapida, indolore. Ma io mi sono sempre, e qui mi piacerebbe intervistare uno scienziato tipo Lobby Frontali, tu che sei più o meno uno che studia il cervello, no? Ma è vero che quando ti staccano la capoccia, lo studia quando è ancora attaccato al collo, volevo dire. Non... No, lui ce l'ha. Non è un anatomopatologo. Però che vuol dire? Comunque un minimo di informazione ce l'ha. Cioè, se è vero, se quando ti staccano la capoccia per un par di secondi sei vivo? E questa è interessante. Ma probabilmente, al di là della scienza, cioè al di là delle prove empiriche o di quelle scientifiche, secondo me è ragionevole che c'hai un momento in cui ti vedi staccare dal corpo e cadere nella cesta. Ragionevole, uno o due secondi. Cioè, bello, non penso si spenga in una frazione. Beh, però tu devi sempre considerare che c'hai la rottura del tronco qui, del tronco spinale. È come quando spezzano il collo, muori all'istante. Quindi chissà. Bisognerebbe chiederlo. Bisognerebbe provare. Se è vero, è vero. Dopo ci organizziamo. Dopo proviamo, ok? Bene. Vabbè, perché poi Trump... Torniamo a Trump comunque. E chissà perché questa ghigliottina ci fa pensare a Trump. cosa ne pensa dei suoi avversari politici? Trump che continua ad andare dritto dritto verso l'impeachment, verso la morte. No, che cosa ne pensa di, per esempio, di Joe Biden? Biden. Come, no, io ho sentito chiamare molte volte Biden in Italia, come, o Bidet in a volte. Italia diciamo anche Ciamp, ti voglio ricordare. Bidet, Joe Bidet, praticamente lui dice che è visto dai democratici solo con favore solo perché ha capito come leccare il culo a Barack Obama. Questo è ciò che pensa di lui, ma l'ha detto apertamente durante praticamente un comizio elettorale. E non è mai stato considerato intelligente, non è mai stato considerato un buon senatore, secondo lui. Perché, cioè, il problema è questo, che lui proprio lui stesso non si è mai messo mezzo secondo in discussione. Lui si sente ogni grande vicente. Ma sì, vabbè, raga, ma di che stiamo a parlare? Hai visto di che cazzo è? Cioè, il problema è che oggi gente così, 30 anni fa, 40 anni fa, non sarebbe successo. Aspetta, oggi o 30-40 anni fa? No. Oggi gente così diventa presidente, sì, non ho finito la frase, diventa presidente degli Stati Uniti. 30 anni fa, 40 anni fa non sarebbe stata possibile una cosa del genere. Ma perché in questi 30-40 anni? E sentite anni, questa frase. Comunque Piergi dice che per me sì, resti cosciente fino a quando il cervello non consuma l'ossigeno. Ma sentite tu Piergi, questa cosa, lo dici questa cosa frase, a livello di percezione o perché hai una competenza? L'ho provato, specifica? Chi può dirlo? Forse si strangola, non so. No, è lì diverso. Sì. I democratici, sentite questa frase, se vi ricorda qualche cosa, i democratici sono gente malata e folle, fin qui, che indaga sul presidente per azzerare il vostro voto del 2016 come se non fosse mai esistito, vogliono cancellare la vostra voce e il vostro futuro. Cosa non mi fa venire in mente, vogliono cancellare il voto degli italiani. Sì, ma la dialettica ormai è questo, quella, ormai è quella. Peraltro questo. Siamo noi che ci ispiriamo profondamente, o meglio alcuni dei nostri politici che, cioè, si ispirano profondamente ma non sono altrettanto ricchi, comuni americani. Quello è. No, beh, il discorso è che in America c'è un sistema sostanzialmente bipartitico, è tutto più semplice. Ci sono i democratici e i repubblicani, ok, poi ci sono i verdi, gli ecologisti e il partito comunista, che hanno entrambi credo uno zero virgola, nessuno li cita. In Dei partiti ce ne sono, c'è il partito liberale, cioè nel senso in America ci sono i partiti, sì, ma tu... però si raggruppa tutto all'interno delle due macro realtà. Infatti comunque anche diciamo gli elementi degli altri partiti quando devono partecipare alla primaria entra nell'area politica del partito di riferimento, quindi o verso la sinistra dei democratici o verso la destra dei repubblicani, a seconda No, ma noi intanto con Gualdi stavamo ricevendo questa notizia in cui non so se tu Pizzi hai avuto modo di leggerla o di vederla. Praticamente Trump è come se avesse fatto il casting per il seguito di RT per Sento Sally. Ha mimato praticamente una scena dell'orgasmo, due agenti dell'FBI che secondo lui praticamente andavano in brodo di giuggiole mentre lo perseguitavano, capito? Cioè, come dire, ha definito nello stesso ambiente questo comizio di Minnesota un idiota la speaker di Nancy Pelosi, che è la terza casa carica dello Stato, che è poi la sua, cioè la cerniva, cioè Nancy Pelosi è proprio quella che gli sta a fare la guerra proprio più. E beh, d'altra parte, ragazzi, ma ci pensate se cosa sarebbe successo in Italia con Berlusconi se avessimo avuto in Italia come terza carica dello Stato una che aveva solo la sfortuna di avere per cognome Nancy Pelosi? Penso che Berlusconi l'avrebbe blastata di battute di cattivo gusto. È strano, Trump non lo può fare perché ovviamente in inglese non, sì, poi c'è questa assonanza. Nancy Pelosi, che tra l'altro c'ha sì il cognome mezzo italico, spagnolo, il latino, bene o male, però italiano Pelosi. Però lei è mezz'afro, cioè nel senso quindi è medice, è mista, insomma, quindi immigrata. Non so se a lei o all'altra deputata che gli ha detto tornatene alla tua tribù, roba del genere. No, non a lei, a una deputata credo di origine messicana. A una tribù che c'ha dentro al Senato. Comunque guarda che Nancy Pelosi probabilmente tu la stai confondendo con Mazza, c'ha 79 anni, complimenti. Sì, bene. La stai confondendo forse con qualche altra politica, perché Nancy Pelosi, vado a leggere la sua biografia su Wikipedia adesso che la apre. No, non Nancy Pelosi, la biografia. Ecco, ci specifichiamo. Sì. Nancy Pelosi, vediamo un po'. Nancy D'Alessandro, attenzione, il suo cognome è D'Alessandro, quindi si è pure sposata con un Pelosi, quindi proprio... Che De Monterotondo, famosa villa, allora, Pelosi. È nata a Baltimora, quindi nel Maryland. Yes. Da genitori italo-americani, Poi vabbè, insomma, con chi si è sposata? No, è che è lei e un'altra che gli fanno proprio la vera guerra. Nancy Pelosi è quella che quando parla è un po' tipo che gli sfugge la dentiera, che poi ha 75 anni. A 80 anni c'è questa. No, no, ce n'ha del 40. 40, 60, Nancy, e 20, Nancy Patricia Pelosi. nata ad Alessandro, Baltimora, 26 marzo 1940, quindi certa, insomma c'è quasi 80. La cosa bella è che su Wikipedia, tra tante foto che potevano mettere, ce n'è una con Trump nel 2017, se vogliono proprio bene, cioè, proprio... vabbè, ma d'altra parte, ma io penso che sia ironica sta cosa, è vero, c'è una foto con Trump, vabbè, in ogni caso, ma ricordiamoci che Trump inizialmente era entrato nel Partito Democratico piuttosto che nei Repubblicani, ricordatevela sta cosa, perché Trump, c'è stato un momento in che cui... sono il partito del male, come che poi lui non voleva fare politica, lui voleva diventare presidente, cioè che è una cosa, e siccome che non trovava spazio, e poi è passato da una parte all'altra. Vabbè, comunque questo è un altro pazzo come Johnson, che ricordiamo Johnson, grandissima notizia di ieri, Johnson ha detto va bene, facciamo una specie d'accordo doganale per l'Irlanda, dove praticamente Belfast rimane, diciamo, nell'accordo europeo per ben altri 4 anni. C'è una sorta di doppia frontiera. Quindi praticamente, cioè fondamentalmente, per l'Irlanda non cambia un cazzo. Cioè cercano di mantenerla, almeno per l'Irlanda, quella tutto che tutto questo, aspetta, no? Scusate, aspetta, la domanda. Aspetta, scusate, fatemi finire un attimo la cosa. Poi dopo dite quello che cazzo vi pare. Però, giustamente, oltre che il diplomatico che ha fatto la trattativa europeo ha detto sì, però è ora che cominciamo a buttare giù un testo legale, perché sennò qui stiamo sempre a chiacchierare. Nel frattempo sono intervenuti gli unionisti irlandesi, hanno detto a noi non ci sta bene. Giustamente. No, la domanda che volevo fare io è, quando Johnson sono uscita con sta cosa, i deputati europei quando hanno smesso di ridere? Ma anche in Parlamento suo, però cioè, perché secondo me stanno ancora a ridere, ma che sì, sei... tutti stanno a ridere ancora, ride. Ah, guarda, se sentivi le fonti governative britanniche ieri, pareva che stavano a un passo dall'accordo per la Brexit, oggi già non se ne parla più, il che significa che era tutta, diciamo, era tutta fuffa, non c'era assolutamente... Ah, vedi, c'era un motivo d'orgoglio, perché ricordatevi che Nancy Patricia Pelosi è inoltre membro onorario dell'Organizzazione Nazionale delle Donne Italo-Americane. Alla Camera, questa sta alla Camera dei Deputati dal 1987. Me coglioni, cioè, ma manco Salvini. No, ma Salvini, cioè, anche Andreotti. Era, diciamo, gente che conta presidente? Più dei presidenti, tra l'altro. Attenzione, perché quelli quando stanno lì da 20-30 anni comandano loro. È californiana. Okay. Mi interessa questa storia di Nancy Pelosi. Ecco, apposta. Stavo parlando appunto delle battute, però. Come siamo messi noi a politici italiani o pseudopolitici o diciamo appoggiatori, utilizzando che però un perfetto italiano, che non spingono? Beh, tanto zio Mischi ci dice, e questa è una cosa interessante, sono su un treno maledetto, io già mi fermerei qua. Esatto. È regionale? Nel senso, anzi, te lo devo dire, sono su un treno maledetto e vi sento a tratti. Devil Man. Sì, ma sì, ma possiamo quello che ci va tanto. Attaccava così, vabbè. Attaccava da cazzo. E niente, ci dispiace zio Mischi, spero che continuerai a sentirci, eventualmente ci senti domani in differita come tutti quanti, perché vedo che non c'è nessuno in chat, quindi è stata la tribuna politica, gli proprio scacciati. No, ragazzi, secondo me sarà molto divertente, l'ho trovata divertente, io mi sono divertito perché spingevo cose, quindi quando spingo come cose come bambini spingi cose, bravo. Come i gatti anche spingi cose, infatti Pizzi è pieno di figli legittimi, ma non lo so, e di gatti non lo so, è padre di tanti gatti legittimi. Volevo parlare di Griller, ma parliamone. Io purtroppo non ho avuto il coraggio di vederlo tutto quel filmato, perché non lo so, c'è avuto un attimo di ripudio. Io lo vorrei vedere. No, dice che con Freccia Rossa ho 60 minuti di ritardo. Ah, vabbè, quindi in Freccia Rotta. Complimenti. È un Freccia Rotta. Ma scusa, prendi Italo la prossima. C'era proprio l'altro ieri una notizia del fatto che c'era questo tributo al fatto che nei nuovi Freccia Rossa 1000 il wifi funziona benissimo. Vabbè, è il treno che non va. Non beh, però se c'è il wifi che passa. Le posso dire che io prendo tanti regionali dove il treno, dove il wifi neanche c'è, quindi ma oggi non serve neanche più. È vero, cioè, non serve più questo wifi, queste cose poi mondiali troglodite. Ma chi è che ha visto il video di Griller? No, io no. Io non ci ho avuto occasione, però non ne parliamo, cioè dovremmo parlarne, io però purtroppo non ci ho avuto, cioè allora vi dico soltanto per la prossima settimana. Vi dico soltanto che sto tizio ha fatto che cioè, si è messo questo tizio che tutti sappiamo che essere Beppe Grillo, si è messo il cerone bianco, si è truccato da Joker. Vabbè, ragazzi, ma stai sempre... che tra l'altro gioca, ricordiamo, la storia di un comico che fallito. Fallito, che praticamente non fa ridere nessuno, non fa ridere più nessuno ormai, e che diventa pazzo alla fine. E dà vita a un movimento quasi politico, diciamo, comunque una rivolta sociale. Quindi Joker è praticamente Griller ed è nella fase di impazzimento adesso, quindi fino a che non comincerà ad uccidere delle persone così senza motivo, va bene. Io comunque gli starei lontano, poi me lo guardo con attenzione, comodo. Attenzione, la medicina 33, attenzione, prima di dirlo, perché no, non ce l'ho, però abbiamo il responso ufficiale. E ve lo levo. Di che cosa, però, diciamolo? No, vabbè, abbiamo la tematica della testa staccata dal collo. Io metterei la musica di Quark, la sonata sulla terza corda, sulla quarta corda. Quelli ce l'hai. Ho messo... La sonata sulla quarta corda. Ho zitto un po', ho messo questa qui. Che schifo. Ecco, questa qua che è bellissima. Che è partita la musica triste. Fuori contesto. Esatto. Finché non vi sono ricevuti traumi finché non si sono ricevuti traumi diretti al cervello e il taglio è stato netto, una testa può sopravvivere anche una decina di secondi fino a quando non esaurisce le riserve di ossigeno e di sostanze nutritive. Vedi, quindi aveva ragione anche cioè è inquietante, quindi sta cosa, cioè, Pier G, senso, che lo diceva prima, ti staccano la capoccia e tu per 10 secondi o almeno 5 di questi 10 secondi sei consapevole che non sei più attaccato al tuo corpo. Ma non so quanto ne sei, cioè magari ne sei consapevole perché implicitamente, no, però penso che ci sarà un rapido, come dire, ottenebramento dei sensi. Non è che rimani perfetto. Io mi immagino che ti si annebbia tutto, magari percepisci anche l'ambiente esterno per qualche secondo e poi via, vai a sfumare come un fade out. Allora la domanda che facciamo successivamente, ma la testa in quei 5 o 10 secondi è cosciente? Con la I? Cosciente. Questa è una cosa importante. Sì, che poi possiamo anche andarcene a casa dopo questa rivelazione. Dai. Potrebbero. Non so cosa. Comunque, giustamente no, Lobby, parlando invece del discorso della riunione di celebrazione dei 10 anni del partito del Movimento 5 Stelle a Napoli, durante il quale si è visto questo video di Grillo, come l'hai definito? Griller, quindi la crasi con Joker. Giustamente, veramente, Lobby Frontali questa cosa ce l'aveva detta, dice, la prima cosa che ho detto appena uscito dalla sala, dopo aver visto il Joker con Joaquin Phoenix, è stata: questo è un biopic apocrifo di Grillo. 2 giorni dopo è successa quella cosa a Napoli. Coincidenze? Io non credo. Secondo me lui pure si è reso conto, cioè che comunque sta facendo qua la fine. C'ho avuto tra un l'altro in politica in Italia un Batman ce l'abbiamo già avuto, anche se non era esattamente un supereroe. Però la Batcaverna ce l'aveva. Esatto, ora la Batcaverna ce l'aveva, quindi e abbiamo il responso ufficiale, che vabbè, è ufficiale e teorico, perché ipoteticamente può anche esserlo. Cioè nella testa, in teoria, se insomma per quei 10 secondi, in teoria è cosciente di quello che sta... Deve essere strano. Secondo me, sai cosa bisogna fare? Meglio non provare. Allora, io ho un metodo che non so quanto si possa considerare scientifico, però secondo me può funzionare. Quella che. Praticamente si deve obbligare. Se fai le pippe con un dito al culo. Si deve obbligare il decapitando a recitare. Da un momento prima del taglio, quindi del certo, della ghigliottina, la tabellina del e lui lo farà sicuramente. Ma no, non può farlo, dopo non c'è più aria. Non può e più così vediamo quanto ci mette. Se si ferma al 2x3 o al 2x6. Lui, no, certo. Nel momento del taglio, io penso che in quel momento che lui sta per... Ma non si sa. No, non può più parlare perché non c'è più polmone. Ah, è vero, no. Non c'è più polmone, quindi non può sparare l'aria. Non può fare niente, è vero. Però non lo so. Trumpa. Così, è partito così. Jingle generico a cazzo dei cani, così. Dice Lobby Frontali, Batman il figlio della Moratti. No, c'è stato un Batman anche nella regione Lazio, è una questione un po' più... Sì, era un po' più grosso. Sì, esatto. Vabbè, comunque, in ogni caso, sono notizie che... No, perché effettivamente il figlio della Moratti aveva, con i soldi sottratti in qualche modo alla regione, si era fatto questo suo piede a terra, che era stato definito praticamente la Batcaverna. Dove ci scannava però le Batgatte lì dentro, probabilmente. Sì, sì. Comunque, andiamo su... Le Battone, esatto. E comunque, andiamo su... Beh, d'altronde, qual è la città natale di Batman? Gotham City, che è Milano. Battipaglia. Vabbè. Qual è l'arma di Batman? Il battipanni. E qual è come si chiama la moglie di Batman? Battona? No. mattone è troppo semplice. E come dicono in Calabria, quando bozza la Batmobile dove la porta? Da Lubatta la Mera, però vabbè. Questa è di nicchia, molto dialettica. È troppo di nicchia. Il carrozziere in Calabria, Lubatta la Mera. Brutta, dobbiamo dare una brutta notizia. 2000 euro è brutta notizia? No, dobbiamo dare una brutta notizia perché di tanto in tanto la gente muore. È successo che muore anche qualcuno in Irlanda. Sì. Praticamente durante un funerale è successo che si è sentita a un certo punto la voce del morto mentre lo stavo tumulando. Fatemi uscire! Alcune persone sono guardate intorno, altre sono scoppiate a ridere. Perché, ma perché? Perché era l'ultima volontà del morto, esatto, quello di farsi seppellire e lanciare questo grido di allarme che aveva registrato lui stesso. Ah, il grido di allarme, pensavo. Sì, sì, di allarme anche. Con cui avrebbe appunto ha chiesto aiuto di farsi uscire, farsi tirare fuori dalla tomba. Ma era tutto lanciare, uno scherzo. Esatto, era tutto uno scherzo. Perché secondo quello che dice la figlia, il padre, che era un po' un burdone, una persona a cui piaceva far ridere la gente, gli sarebbe piaciuto far divertire. E infatti l'aveva fatto. Vedi la scusa, cioè come ha fatto a partire l'audio nel momento giusto? Era perché tutto pianificato. C'erano gli altoparlanti del cimitero, era stata organizzata la cosa. Ma è vero, perché l'Irlanda è il paese dove... Però posso fare un applauso a sto tipo? Sì, assolutamente. Grande, perché veramente penso... Cioè è un modo anche di affrontare la morte questa, penso. Quindi... Sì, è un modo per cercare di intramezzare. Perché lui pensava, chissà, forse muoio, sono abbastanza cosciente da vedere la gente che ride. Chi può dirlo? Mica quando decapitato. E infatti, quindi chi può dirlo cosa pensava? No, ma ragazzi, invece a proposito di coccodrilli... Ah, dice che gli si fanno sbattere le palpebre, se cosce. Scusa, ma io ormai sono trippato per questo argomento. Sì, vabbè, penso che non ci dormirei stanotte. No, volevo allungare, diciamo, volevo aggiungere un altro coccodrillo, che in qualche modo magari si può anche agganciare al nostro momento dedicato a serie TV, eccetera. Perché in questi giorni, tipo 2-3 giorni dopo l'uscita di El Camino, che è il film di Breaking Bad, è venuto a mancare Robert Forster, che era praticamente The Man. No, non ne parliamo ancora, rispettiamo almeno un'altra settimana. Aspettiamo un'altra settimana, tanto secondo me chi non l'ha visto non lo guarda più. Però dicevo, insomma, Robert Forster, che era quel personaggio che in Breaking Bad in più di un'occasione ha creato identità, nuove identità ad alcuni personaggi, gli ha permesso in qualche modo di, diciamo così, di fuggire da quel contesto, e che è apparso anche nel Camino in un ruolo comunque similare. Praticamente 2-3 giorni dopo l'uscita del film su Netflix è morto. Deve aver visto il film e non gli è retto il cuore. Questo secondo è quello. Non per fare spoiler, è quello che pensi tu. In realtà vive in Alaska o da qualche altra parte nel mondo con una nuova identità. Ah, potrebbe darsi, sarebbe anche un finale romantico. Esatto. Teste di animali attaccate a macchinari specifici sono state tenute artificialmente in vita anche per diverse ore. Ci sono dei video su YouTube, ve li linko. Io ho detto no perché meglio di no, grazie, perché è abbastanza raccapricciante. No, no, anche perché poi quando certe cose, quando le vedi a fare sugli animali, assumono anche, come dire, subentra anche un fastidio ulteriore, perché proprio non giustifichi questa forma. No, di... ma è talmente troppo grottesco e brutale che non, cioè, non posso essere so che può sembrare strano. Già sto periodo sono molto sensibile. Me lo fai vedere con una capoccia umana non mi fa né caldo né freddo, me lo fai vedere con un animale mi parte infatti, la infatti Biergi ha risposto: immagino tutti molto volontari questi animali, insomma. Assolutamente sì. Tanto se vuoi morire tagliaci la testa. No, brutta. No, scusa, però no, io non posso accettare questa provocazione, questa diffamazione di Rizzard, che dice: Matteo Sbano, con tutti i soldi che ti si è rubato, almeno comprati un microfono più sensibile. È Matteo Gualdi che si è rubato i soldi. Che no, diamine. No, sempre colpa dei governi precedenti. Ricordati, e tu sei un governo precedente. Ma se io il mio partito l'ho fondato. Lo sai che bello. Sì. Ma se il mio partito l'ho fondato adesso. Lo hai affondato adesso. Comunque, no, non lo so, forse è il problema dei settaggi. Non lo so, però io lo sento benissimo Sbano. E poi c'è sta col Beringer, mica sta con mica col cinesino. Mica sta col cinesino come Gualdi. Che però sentite che bello. Sentite che voce. Allora, io invece mi sto informando perché c'è una messa. Aspetta, no, andate avanti, mi informo tanto, No, guarda, già mi hai fatto rodere il culo, c'è una messa. Sendo te devi mettere la messa. Allora, già c'è la messa, poi se sai che messa è ancora peggio. Ma poi se già c'è la messa, il 27, attenzione, a noi tutti che siamo molto patriottici. No, non lo dire, io ho capito dove andare a parlare. Hashtag Banca Sbano. Attenzione, perché il 27 c'è a tutti a Predappio che c'è la messa per Duce. Con la tutti quanti a testa in giù. Questa è l'unica cosa che si richiede, è di andare tutti a testa in giù. Per rispetto. Sono d'accordo, infatti Però sarebbe figo. Sì, io ancora non ho capito nell'ottica di, diciamo, delle... Cioè, è brutale pure la battuta, diciamo. Però, però io continuo a dire, di fronte, ragazzi, al fatto che questi fanno la messa per Benito Mussolini, li mortacci vostri. C'è un reato penale che si chiama apologia del fascismo e continuano a far finta che non ci sia. Sì, sì, e nessuno in Italia gli dice c'è niente. Problema, perché in Italia non la posso tollerare. Hanno paura del, capito, della, della persecuzione per motivi politici, quindi è molto delicata. Allora, cosa. Delle due una. Depenalizza il reato, almeno, almeno togliamo di la fatto, farsa. Di fatto è già depenalizzato, dai. Non esiste, ho capito. Fai finta di niente, via. Certo. Allora, qui, ci, qui mi danno una notizia che io non so se possa essere verificabile o se possa essere vero, ma dice ovviamente si è provato a fare trapianti di teste con esseri umani, ma... Ma trapianti di testa compresa tutta la spina dorsale o recidendo la spina dorsale cercando di saldarla altrove? Perché quanti cazzi sbaglio? È vero, how quanti many dicks? No, how il trapianto, dicks. No, il trapianto di cazzo l'hanno fatto solo a John Bobbitt e non mi pare sia andato benissimo. No. Da quel momento hanno detto basta. Basta trapianto. Hanno detto bastard. Vabbè, questa cosa della testa secondo me ci sta sfuggendo di mano. Vabbè, ragazzi, io potrei dire che tutto sommato è vero che siamo un po' in anticipo, ma penso che... Io sto imparando tante cose importanti però, eh. Pure oggi ce la siamo portata a casa. Ma va? Sì, dai, ma sì. Non so, io rimarrei in diretta solo per continuare a leggere questa cosa della testa, perché... Vabbè, casomai Lobby ti telefono e mi racconti. No, ma io dico, scusami, invitiamolo, facciamo una monografica, invitiamolo in trasmissione la settimana so. Prossima e parliamo di... come teste. Boh, Lobby, se Lobby c'ha una volta un weekend che proprio vuole, noi lo ospitiamo e ci facciamo... E gli tagliamo la testa. Certo. E la mettiamo in un barattolo. Ah, tipo giustamente, Futurama. Chiedete ai nazisti. Vabbè, i nazisti hanno provato tutto il contrario di tutto, insomma, però vabbè. Diciamo che non so quanto ci fosse poi di fondato e di scientifico in molti degli esperimenti che facevano, però vabbè, voglio dire, da qualche parte bisogna pure iniziare. Io ho il pelo su queste cose che, diciamo, come gergo non capisco, non lo so tradurre. Che significa? Tu che sei napoletano. No, io penso che voglia dire che c'è il pelo sullo stomaco. Ah, cioè, dice, nel senso che è preparato, insomma, diciamo. Rizzard, c'è un intervento Rizzard. Vabbè, ragazzi, per la scienza questo è altro. Beh, no, ragazzi, giustamente dice, sì, per Rizzard, no, scusate, sì, il trapianto di cazzo l'hanno fatto pure a Salvini sulla testa ed è un'operazione perfettamente riuscita. Grande, grande, questa volta ti approvo, Rizzard, anche se non sempre ti condivido. Ma in realtà non è vero, perché... Anche la congiunzione dei nervi penso sia ancora impossibile. Vabbè, poi va qui parte. Vabbè, ragazzi, abbiamo però trovato l'argomento che fa andare la chat per i cazzi suoi. Ci abbiamo messo un po' di più questa volta. Il trapianto di testa e dei cazzi. Questa è una cosa bellissima. Va bene, ragazzi, io direi che per questa sera abbiamo provato a fare un esperimento. Intanto abbiamo deciso che ogni tanto faremo degli esperimenti così a cazzo di cane. Perché uno, perché così se divertiamo pure noi, sennò diventa un po' una palla. E due, perché mi si è spento il monitor. Poi anzi, non sappiamo neanche se in realtà ci state ancora sentendo. Non... Perché il monitor è spento, non sappiamo se sta andando. Ecco, è tornato. Tutto a posto. Se... Ma ti scherzo. Penso che... Quanto costa un monitor? Dipende, 1000-1500. La madonna. In lire. Ah, in lire, ok. 1500 lire. Ah, vabbè, allora cazzo me ne compro una ventina di monitor. Ok, una vagonata, dai. Esatto. Va bene, io ringrazio e saluto con tutto l'affetto del mondo Walter Sbano. Buona serata a tutti. Che questa sera ha interpretato per la nostra gioia Matteo Sbano. Guarda che originalità. Leader del partito Italia Mortificata. Però lo devi dire con un velo di mortificazione, se no. Italia mortificata. E ringrazio e saluto anche Marco Gualdi. Ciao. Che ha interpretato magistralmente anche Matteo Gualdi. Esatto. Sempre fantasia incredibile. Leader del partito della Lega Ottimista. Siamo molto ottimisti. Guarda il Negrocio, ricordate il Negrocio. Sì, è molto bello, molto bello. Il Negrocio che è il futuro dell'essere umano, è proprio la summa di ragazzi, tutto. Ragazzi, il futuro dell'ingegnere genetico. Esatto. L'umano farà, ragazzi, perfetto. Passerà allo step successivo che è il Negrocio che è un essere che si autoriproduce. Poi. Lo realizzeranno in laboratorio, lobby frontali e PRG con degli esperimenti. Tagliando le teste agli animali. E via, togliamo le teste. Io so da chi prendono la testa e da chi prendono il cazzo. Sì, non voglio saperlo. Sì. Va bene, buonanotte. Al Lobby che dici per la scienza giustamente va a decapitare qualcuno. Beh, giusto, come per la scienza, come diceva Achille Occhetto, per l'Italia, per l'Europa, per il socialismo, e poi si mette a piangere. Ciao a tutti e buonanotte. Ciao. E alla prossima volta con Ottimisti Genericamente Mortificati. Ciao.